Nessun luogo, nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. E una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a questa ultima puntata settimanale di Nessun luogo è lontano. Un saluto anche da Valeria Coffaro, che è in redazione, da Fabio Cantadore, che è qui di fronte a me in regia. 39 immigrati sono stati soccorsi l'altro ieri dalla Guardia Costiera a mezzo miglio da Lampedusa. Altri 10 sono sbarcati a Pantelleria. La rotta a sud del Mediterraneo è sempre più blindata, ma i migranti non si fermano. Quali sono le nuove vie che portano all'Europa? Lo sapevate che la maggior parte degli immigrati irregolari non arriva con un barcone, ma in aereo, con un passaporto e un visto che poi scade? Oggi parliamo di rotte, luoghi e non luoghi dell'immigrazione. E lo faremo con Gabriele Del Grande, giornalista, scrittore e fondatore del sito Fortress Europe, con Isabella Cooper, portavoce di Frontex, l'agenzia europea per il controllo delle frontiere. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi: gli sms 349-238-6666 per domande a me oppure ai miei ospiti. Siamo su Facebook alla pagina Nessun luogo è lontano. Infine, per domande un po' più lunghe e più articolate, usate la mail nessunluogo@radio24.it. Ma siccome Nessun luogo è lontano, io vi conduco al porto di Patrasso in Grecia. Tu hai provato a infilarti sotto un camion per partire? Ancora no, facevo paura. Ancora no. Pensi che lo farai? Sì, lo faccio, perché voglio entrare in Italia. La voce che avete sentito è quella di Tony, un 18enne afghano che ho incontrato alcuni mesi fa a Patrasso e di cui poi però purtroppo ho perso le tracce. Tony è in qualche modo il simbolo di quella che è la grande diaspora afghana, delle migliaia di giovani e meno giovani afghani che fuggono dal paese in guerra e tentano di arrivare in diversi modi in Europa. Ascoltate ancora la voce di Tony. Hai lasciato la tua famiglia in Afghanistan, a Kabul? La mia famiglia, sono rimasto due mio fratello, da altri tutti nel 2002, quando è arrivata questa guerra di America con l'Afghanistan, con i talebani, tutti la mutano. Adesso non c'è nessuno, solo mi mancano due fratelli. Li senti ogni tanto al telefono? Ogni tanto si chiamano sul telefono. Sono più grandi di te? No, più piccolo. Uno c'ha 6, un altro c'ha 14. Cosa gli dici? Cosa gli racconti? Che devo raccontare? Loro non c'hanno papà, mamma, sorella. Che devo dire? Niente, solo dico che la nostra situazione è troppo brutta. Tutti al mondo devono pensare un po' di quegli immigrati che vengono, perché loro non vengono per un pezzettino di pane, per un'altra cosa, che tutti morano. Gli immigrati non vengono per un pezzo di pane e molti muoiono durante rotte sempre più lunghe, ardite, pericolose, e all'interno delle quali ci sono dei colli di bottiglia, degli imbuti, come nella rotta greca. I porti di Patrasso e di Igoumenitsa spesso vedono sorgere delle baraccopoli o degli insediamenti colmi di afghani che aspettano di nascondersi dentro o sotto i camion in partenza per l'Italia, poi da lì muoversi in Europa. Spesso è il nord Europa che attira i migranti, perché lo stato sociale, i processi per la richiesta di asilo politico sono più efficienti al nord. Allora facciamo un po' di chiarezza, partiamo dai numeri. I migranti nel mondo negli ultimi 10 anni sono cresciuti da 150 a 214 milioni. Di cosa sto parlando? Sto parlando del fatto che il 3,1% della popolazione mondiale è fatto da migranti. Nella sola Europa sono 25 milioni, quindi il 5%. La metà di questi sono donne. Stiamo parlando di una massa incredibile di persone che si sposta dal sud del mondo verso il nord del mondo, da est verso ovest, e che crea un giro economico. Nel 2009 le rimesse nei paesi di origine sarebbero stati 316 miliardi di dollari. Do intanto il mio benvenuto a Gabriele Del Grande. Buongiorno. Buongiorno Gabriele, giornalista, scrittore, il tuo ultimo libro si chiama Il mare di mezzo, credo. Sì. Giusto? E che in qualche modo continua l'operazione e il percorso che avevi iniziato con Mamadou Va a morire. Insomma, sono credo 4-5 anni che tu viaggi sulle rotte dei migranti, se non sbaglio. Esatto, dal 2006. Oltre a fare questo, hai fondato un sito che è Fortress Europe, che si trova all'indirizzo, credo, http://blog.fortresseurope.net. Correggimi. Ho sbagliato. Fortresseurope.blogspot.com. Ecco, ho invertito, ho fatto un anastrofe. Questo sito, oltre a essere, come dire, una fonte di informazioni, fa la conta dei morti, dei migranti che hanno tentato di raggiungere l'Europa. Al momento siamo, se non mi sbaglio, appena sotto i 15.000. Esatto. Questa tragica conta dei morti ci fa capire come ho fatto un rapido calcolo, ci potrebbe essere dal 1988 oggi una media di 2 decessi al giorno, ed è una stima fatta poi in realtà per difetto, perché non sappiamo, non abbiamo modo di verificare le morti che avvengono ad esempio nel Sahara o che avvengono in certe zone dei mari, non tutte sono monitorabili. Quindi molto ragionevolmente, mentre io vi sto parlando, oggi ci saranno 2 immigrati che moriranno per tentare di raggiungere l'Europa. Gabriele, siamo partiti da Patrasso, da Igoumenitsa, dalla Grecia, perché questa è una rotta che probabilmente avrà sempre più importanza, perché gli accordi di ferro stretti dal nostro governo con la Libia hanno in qualche modo chiuso la rotta a sud di Lampedusa. Come può funzionare il futuro di quella rotta lì? Turchia, Grecia? Ma premesso insomma che nessuno sa la sfera di cristallo, quindi non possiamo insomma prevedere quello che accadrà, ma sicuramente abbiamo dei dati insomma alla mano, che sono i dati dell'anno scorso, ci hanno visto appunto diminuire fortemente gli arrivi via mare sia in Spagna che in Italia che a Malta, mentre invece dal lato Turchia-Grecia gli arrivi sono aumentati del 50%, per cui diciamo la tendenza è quella appunto di al momento almeno insomma di una diminuzione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale e occidentale e di un aumento di quelli dal lato est, fermo restando il punto che giustamente ricordavi prima, che in realtà la rotta per eccellenza è quella che passa dai nostri aeroporti e dalle nostre frontiere terrestri, cioè di chi entra in Italia in modo regolare con un visto e poi entra nell'irregolarità, visto che la legge rende tecnicamente proprio impossibile convertire un visto turistico in un permesso di soggiorno, anche quando c'è un lavoro, la casa e tutte quante le carte in regola. Allora, hai accennato alle diverse rotte, facciamo un attimo chiarezza. Nella complessa geografia delle migrazioni verso l'Europa possiamo tracciare almeno 3 rotte principali. La prima parte dall'Africa subsahariana, dalla Nigeria, dal Ghana e dal Togo, e dopo lunghi e pericolosi viaggi nel deserto arriva alle coste del Maghreb. Da lì ci si imbarca per Italia, Spagna, Francia, Grecia. Ora che Lampedusa è sbarrata, in seguito agli accordi con la Libia e ai respingimenti, si approda in Sardegna, Corsica, Calabria. La seconda, dall'Africa nera, conduce alle coste di Senegal e Mauritania. Da lì si tenta di arrivare con fragili piroghe alle isole Canarie. Questa rotta è quasi del tutto chiusa a partire dal 2007, dopo che la Spagna e l'agenzia Frontex hanno intensificato i pattugliamenti aerei e navali. La terza, dall'est dell'Asia e dell'Europa, passa per la Turchia e la Grecia, per i porti di Patrasso e Igoumenitsa, e poi Bari e Ancona. I migranti si nascondono nei tir e cercano di passare i controlli. Oppure cercano di passare via terra attraverso l'interno, attraversando i paesi dell'ex Jugoslavia fino alla Slovenia, e di notte, fra i boschi e le montagne, arrivano in Italia. E arrivano in Italia anche via terra, come giustamente ricordavi, Gabriele. Quello di cui stiamo parlando è una grossa spinta, che in parte è anche demografica, ma sentiremo più tardi un contributo da questo punto di vista. Una spinta che è difficilmente contenibile. Allora, il tema immigrazione è uno dei temi più facilmente strumentalizzabili, ideologizzabili. Io vorrei cercare oggi di stare su quelli che sono i dati, le statistiche, i fatti. I dati dicono che se si chiude una porta in Europa, si apre una finestra dall'altra parte. Sei d'accordo, Gabriele? Sì, sono d'accordo, e direi anche dell'altro, perché sennò sembra soltanto di parlare di un fenomeno che in qualche modo subiamo e contro cui dobbiamo difenderci. Oltre a una spinta c'è una richiesta. La richiesta di ingressi è quella di un Maroni, tanto per fare un esempio, che poche settimane fa ha firmato il decreto flussi, che chiede l'ingresso di 80.000 lavoratori stagionali, che sono 4 volte quelli che sono sbarcati l'anno scorso sulle coste siciliane, che a settembre 2009 ha firmato una sanatoria di 300.000 lavoratori stranieri, che sono 15 volte le persone arrivate l'anno scorso via mare, per cui non è che c'è soltanto diciamo, no, un'onda o una supposta invasione, no, da cui dobbiamo difenderci, c'è una richiesta insomma forte a livello internazionale di mobilità, che poi è la causa per cui c'è quella grande mobilità di cui accennavi prima, e c'è invece una mancata via diciamo pratica, pragmatica per gestire il fenomeno, per cui insomma, si parla soltanto di repressione, di difendere le frontiere, di chiudere le frontiere, si militarizzano i confini, causando appunto l'effetto che dicevi prima, che poi quello che è successo in Spagna, quello che è successo in Italia, cioè chiude una porta e se ne apre un'altra qualche miglia più in là, si apre una porta insomma più lunga, spesso più pericolosa, spesso aumentano i morti. Sì. E allo stesso tempo invece non si fa niente per canalizzare diciamo quel quei flussi, quegli spostamenti di persone in canali illegali. Insomma, oggi è praticamente impossibile dall'Africa avere un visto turistico per venire in Italia, tanto più è difficile avere una possibilità di entrare per lavoro. L'Italia ogni anno chiede lavoratori dall'estero, ma lo chiede con una legge veramente che sa di commedia all'italiana, che prevede che il datore di lavoro assuma un perfetto sconosciuto dall'altro lato del mondo, insomma, senza mai averlo visto né incontrato prima. Sì, che quello è, diciamo, uno dei grandi, diciamo, paradossi, no? Collaterale, certo. Esatto, di questi paradossi. Certo. Fra l'altro la mancanza dello sponsor, insomma, della persona che in qualche modo dall'Italia o dall'Europa si fa carico, no? E quindi dice: io voglio assumere questa persona, questa potrebbe essere indicata come una carenza. Fra l'altro la tesi che, diciamo, sostieni tu è anche sostenuta da un docente di sociologia di Milano, che è Maurizio Ambrosini, che ha scritto svariati testi e spiega, insomma, come alla fine l'Europa tutta intera pare difendersi dai migranti salvo poi averne bisogno come forza lavoro. C'è anche un problema demografico, fra l'altro oggi La Stampa lo segnalava in un bell'articolo: la popolazione europea sta invecchiando, nascono sempre meno bambini, noi, insomma, in qualche modo avremo bisogno degli immigrati. Il fatto delle sanatorie non è un caso esclusivamente italiano, perché basti ricordare anche le tante sanatorie che il governo francese ha fatto in passato, pur, come dire, usando poi il pugno di ferro nei confronti degli ingressi degli irregolari. Allora, abbiamo parlato di demografia, sentite che cosa dice Maria Paola Nanni, che ha redatto l'ultimo dossier statistico immigrazione a cura di Caritas Migrantes. Forse il dato più importante è un dato che guarda al futuro, cioè il dato che ci dice che la presenza africana in Italia e in Europa in generale è destinata ad aumentare, anche ad aumentare di molto, e questo a seguito di sviluppi demografici, cioè socio-economici, anche climatici, sui quali abbiamo pochissime capacità di intervenire, quindi è un futuro assolutamente verosimile, e che ci dice che, per dirla brevemente, che la popolazione africana raddoppierà nel corso dei prossimi 40 anni, quella europea invece diminuirà, e diminuirà di molto. È una accenno brevissimo che da solo non spiega l'aumentare delle migrazioni, ma ci fa capire il perché la presenza africana in Italia crescerà, e crescerà soprattutto la presenza della componente subsahariana, cioè dei migranti che arrivano dalla fascia del Sahara in giù, e quindi una presenza che oggi è meno visibile in Italia, dove invece è il protagonismo magrebino, marocchino in primo luogo, che si è affermato nel corso degli ultimi anni. Nessun luogo è lontano. Rotte, luoghi, non luoghi dell'immigrazione, come arrivano dall'est asiatico, dal sud del mondo i migranti in Europa, questo stiamo cercando di capire oggi a Nessun Luogo Lontano. 349-238-6666 è il numero per mandare sms, lo stesso numero che ha composto Eleonora, che è un'assistente sociale, si occupa di richiedenti asilo, in particolare dal Corno d'Africa. Non si tratta, dice Eleonora, di migranti economici, ma sono persone che fuggono obbligati da torture e guerre. È verissimo, quella è una fetta dell'immigrazione, ma siccome noi oggi stiamo cercando anche di distruggere quelle che un ospite di un paio di puntate fa avrebbe definito le single story sull'immigrazione, cioè quei grandi feticci, quei grandi misunderstanding, quelle grandi storie raccontate da un solo punto di vista. Allora, la prima: arrivano i barconi, emergenza. No, non arrivano solo i barconi, arrivano persone con un visto normale, turistico, in aereo, e sono la maggior parte, il visto poi viene fatto scadere. La seconda è: arrivano tutti e scappano tutti da guerre. No, non è assolutamente vero, alcuni scappano da guerre, altri semplicemente hanno il desiderio, la volontà di cambiare vita. Poi possiamo discutere sul fatto che, come dire, sia lecito un loro ingresso, si debba essere permesso un loro ingresso, ma pensare che tutti scappino da guerre, anche questo è un errore. Do il mio benvenuto a Isabella Cooper, portavoce di Frontex. Buongiorno Isabella. Buongiorno. Allora, Frontex è l'agenzia europea che si occupa del controllo delle frontiere. Isabella, Frontex è stata spesso, fra l'altro negli ultimi anni, negli ultimi mesi, al centro di polemiche. Partiamo dalla funzione, la missione di Frontex, qual è esattamente? Dunque, Frontex è un'agenzia dell'Unione Europea che ha il compito di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne all'Unione. Il suo mandato include 6 aree, la prima appunto il coordinamento delle attività operative, ma anche assistere gli Stati membri nella formazione delle guardie nazionali al confine, anche elaborando norme e metodologie comuni in materia di formazione. preparare gli studi dell'analisi dei dati, seguire l'evoluzione delle ricerche scientifiche con possibili riflessi in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, ma anche aiutare gli Stati membri che devono affrontare circostanze tali da richiedere un'assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne. L'ultima area è fornire agli Stati membri il sostegno necessario per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte. Ora, vorrei sottolineare il fatto che Frontex non sostituisce le attività delle guardie di frontiera nazionali, ma costituisce un valore aggiunto in questa nuova prospettiva europea, sì, che prevede l'assoluta mancanza, no, dei controlli all'interno dell'Europa dopo, sì, la firma degli accordi di Schengen. Ma naturalmente contribuisce alla formazione per il controllo omogeneo e standardizzato del controllo delle frontiere esterne, sì, quindi ogni stato lontano da una frontiera esterna deve poter contare sulla capacità e sulla competenza procedurale di controllo di guardie di frontiera di un altro paese come se fossero le proprie. Questo vuol dire cosa? Che io italiano mi devo fidare dei controlli svolti dalle guardie di frontiera greche o polacche sul confine rispettivamente turco o bielorusso. Chiarissimo. Giacché ha citato il confine greco, che, sì, diciamo, abbiamo citato anche noi a inizio trasmissione, quella è una delle parti più sensibili. Al momento risulta anche a voi, immagino, dai dati che avete a disposizione, ci sono tre paesi in Europa che subiscono in maniera più prepotente quella che è l'ondata degli arrivi, che sono Grecia, sono Italia e sono la Spagna. In Grecia c'è una grossissima diatriba in atto, c'è un grandissimo dibattito, perché ci sono spesso levate di scudi di associazioni che proteggono i diritti umani. Amnesty International, cito, sono una delle ultime, perché la Grecia è, diciamo, tra i paesi europei quella che ha la medaglia nera, se così posso definirla, per ciò che riguarda concessione del diritto d'asilo e anche rispetto dei diritti umani. Secondo molte denunce, alla frontiera greco-turca gli agenti greci non si comportano come andrebbe fatto, non si comportano come richiesto, hanno, diciamo, la mano pesante. Voi non siete presenti in tutti i controlli che la Guardia Costiera greca fa, voi non coordinate tutte le operazioni di controllo, ma lei cosa ci può dire su quell'aspetto, sul controllo della fascia greco-turca? Ma guardi, noi, come ha detto lei giustamente, noi, il nostro mandato si limita al coordinamento delle operazioni, quindi sulla base dell'analisi del rischio viene pianificata un'operazione appunto sul confine greco-turco, noi poi in cooperazione con le autorità greche pianifichiamo lo svolgimento di un'operazione congiunta, poi invitiamo i paesi membri di partecipare, gli stati membri dell'Unione Europea a partecipare in questa operazione. L'operazione a cui si riferisce, che riguarda appunto, che si svolge sulle coste greco-turche e anche sul confine terrestre, si chiama Operazione Poseidon e abbiamo 26 paesi membri che ci partecipano. Quindi sono 26 paesi membri partecipano attraverso il dispiegamento degli esperti oppure dei mezzi tecnici, quindi elicotteri, voli, gli elicotteri, sì, aerei oppure navi o altro tipo di imbarcazioni. Isabella, una delle testimonianze più comune che ho raccolto io stesso lavorando sulla rotta greca era che i guardiacoste greci spesso non solo respingono i canotti, ci sono alcune isole, ad esempio Samos, dista 800 metri nel punto più breve dalla costa turca. Mi hanno riportato casi di affondamenti di canotti, mi hanno riportato casi di... Amnesty stessa sostiene che vengono imprigionati i minori e richiedenti asilo, i minori non accompagnati, cioè la Grecia, come dire, non ha un approccio rispettoso di diritti umani in questo senso. Lei, per quello che monitora, che cosa mi può dire? Guardi, non abbiamo il mandato, il nostro mandato non ci permette di monitorare L'attività dei singoli stati. L'attività dei singoli stati, io le posso parlare soltanto a quello che succede all'interno delle operazioni condotte e coordinate da Frontex. All'interno delle vostre operazioni lei esclude chiaramente... I respingimenti non vengono praticati assolutamente, vengono, come ha detto lei giustamente, ci sono, il confine è molto... cioè le acque territoriali diciamo sono molto... molto ridotte, perché sì, parliamo di appunto di 800 metri, un chilometro, e quando le funzioni, la funzione di pattugliamento è anche una funzione di deterrente, diciamo, no? Quindi se ci sono delle pattuglie, poi coloro che organizzano il traffico degli esseri umani, no? Oppure sì, comunque il traffico, i cosiddetti scafisti, non entrano nel territorio, nella zona dove ci sono i pattugliamenti. Certo. Il che probabilmente ha fatto spostare questa rotta migratoria sul confine terrestre, che ora oltre l'80% dall'inizio di quest'anno degli immigrati che irregolari che usavano appunto la rotta marittima, ora passa il confine terrestre. Comunque, tornando alla sua domanda, noi di respingimenti all'interno delle nostre operazioni non ci sono, quindi c'è l'effetto deterrente dei pattugliamenti. Sì. Poi una volta intercettata, se un'imbarcazione viene intercettata sulle acque già greche, viene accompagnata sulla terraferma per far scattare il processo dell'identificazione. Ecco, quindi voi escludete che nelle operazioni da voi condotte ci siano respingimenti e quindi non ci sia il controllo se vi siano richiedenti asilo. Questo fatto qua mi dà il destro per chiederle, ma insomma, ma allora se è così, perché Frontex non si fa carico di un controllo, di una gestione generale delle frontiere e in qualche modo mi va a certificare, mi mette un bollino che tutte le operazioni di frontiera vengono condotte impeccabilmente, in cui il richiedente asilo viene identificato, io so che è un immigrato che deve avere una protezione internazionale e quindi ho il bollino blu di Frontex su ogni singola operazione, perché altrimenti se l'operazione è lasciata alla discrezionalità di una polizia piuttosto che di un'altra, noi lo sappiamo, la polizia greca si comporta in un modo, la polizia italiana in un altro, la polizia spagnola in un altro, io l'ho visto con i miei occhi anche a Patrasso e anche a Samos. Questa è una domanda che dovrebbe rivolgere alla Commissione europea e al Consiglio europeo, perché noi possiamo soltanto lavorare all'interno di quello che è prescritto dal nostro mandato. Che è il vostro quindi, mandato. Che al momento... Il nostro mandato è di coordinare la cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione europea. Chiarissimo. Non abbiamo il mandato né di monitorare le pratiche né di fare nient'altro, sicuramente non abbiamo il mandato di gestire le richieste d'asilo, perché non siamo uno Stato sovrano, assolutamente, no? Siamo assolutamente un'organizzazione appunto che ha il mandato di coordinare la cooperazione operativa. Peraltro, già che abbiamo parlato del diritto d'asilo, c'è, come dire, un innesto legislativo che vorrei fare che complica ulteriormente la cosa. Allora, c'è una circolare che si chiama Dublino 2 che fa sì che il migrante, quando arriva in Europa, deve essere identificato nel primo paese europeo che tocca. Se si reca in un altro paese europeo e viene preso dalla polizia, viene arrestato, viene fermato, viene rimandato nel primo paese europeo che l'ha identificato. Ora, siccome i primi paesi europei che vengono toccati dall'ondata dell'immigrazione sono Grecia, Italia e Spagna, succede spesse volte che il migrante venga rimandato indietro. Ora, tutte le testimonianze che ho raccolto in Grecia mi dicono: ma io in Grecia non ci voglio stare, io vorrei andare in Inghilterra spesso a raggiungere parenti, familiari o amici. Ma questa è una delle dei tanti paradossi di un'Europa che fatica a gestire il traffico migratorio. Isabella, prima di lasciarla, un'ultima annotazione. Voi vi occupate anche, come accennava lei all'inizio, di eventuali rimpatri quando appunto ci sono le condizioni, è giusto? Sì, noi coordiniamo la cooperazione operativa, coordiniamo anche i voli di rimpatrio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un paese membro, che uno Stato membro che intende organizzare un volo di rimpatrio, notifica Frontex, il quale a sua volta informa tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e quelli dei paesi associati a Schengen di questo volo. e quindi mettiamo in contatto questi paesi che vorrebbero partecipare, vorrebbero mettere a bordo i gruppi dei rimpatriati verso il paese in questione. Quindi se l'Austria ad esempio organizza un volo di rimpatrio in Kosovo, sì, noi informiamo gli stati membri di questo fatto, i quali poi decidono, ci notificano se vogliono parteciparne o meno. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Dell'immigrazione, come l'Europa tenta di contrastare quella irregolare. Oggi Nessun Luogo è Lontano, 349-238-6666 per i vostri sms. Isabella Cooper, portavoce di Frontex, dai vostri dati possiamo fare una previsione nei prossimi mesi di quale sarà la rotta più sensibile? Ma sicuramente, come abbiamo detto precedentemente, la rotta, quella greco-turca, rimane sicuramente la più sensibile, con appunto con lo spostamento della pressione migratoria dal confine marittimo, quello delle isole, sul confine terrestre. Già soltanto negli ultimi 3 mesi questo spostamento si è verificato questo spostamento, aumentando la pressione sui confini terrestri dell'oltre 80% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Allora, questo è il quadro che ci viene da Frontex. Grazie a Isabella Cooper per essere state con noi. Una buona giornata. Buongiorno. Allora, Gabriele Del Grande, che è ancora con noi, scusami, ti ho dimenticato per un attimo. Fra l'altro io volevo citare poi un'inchiesta dell'Independent di qualche mese fa, che parlava proprio di rimpatri di migranti. In particolare citava il caso di un camerunense che aveva chiesto asilo politico in Inghilterra, ma la richiesta era stata rigettata ed era stato poi accompagnato all'aeroporto e poi riportato nel suo paese. L'inchiesta particolarmente scottante fatta in Inghilterra, perché insomma vengono usati i voli della British Airways, vengono usata una scorta privata che a volte usa le maniere forti. In quel caso già Frontex aveva, un altro portavoce aveva risposto che non vi erano stati secondo loro casi di percosse oppure di utilizzo appunto della forza. Gabriele, un altro diciamo non luogo, come li chiamo io, dell'immigrazione è Calais e la Francia, perché lì si concentrano parecchi afghani. Sai meglio di me che la giungla, la cosiddetta jungle, è stata poi rasa al suolo di recente, ma gli afghani continuano a voler andare verso il nord Europa. Come mai? È un po' per il discorso a cui accennavi prima, insomma, sono persone obbligate in qualche modo a viaggiare via terra, non potendosi permettere il lusso di avere un passaporto, di ottenere un visto sul passaporto dalle nostre ambasciate, e quindi per entrare in Europa dall'Afghanistan si passa dalla Turchia alla Grecia. La Grecia non riconosce l'asilo se non a 3 persone su 1000, queste sono le statistiche, contro il 50% in media del resto dell'Europa, e quindi dalla Grecia, Patrasso, Icano, l'Italia, poi il viaggio continua fino al porto successivo, che è quello di Calais, dove di nuovo, come a Patrasso, ci si nasconde sotto i camion e si tenta la fortuna sperando, insomma, di passare la frontiera, di non essere poi rispediti da Londra in Grecia, in base a quell'accordo di Dublino di cui, insomma, che citavi prima. Sì. In qualche modo è la fuga dopo la fuga, insomma, è l'impossibilità di viaggiare, di circolare liberamente anche una volta entrati, no, all'interno della fortezza. E contro queste situazioni poi la risposta di nuovo non è quella di andare a modificare quelle leggi, quelle convenzioni che causano questi problemi, vedi Dublino, ma una risposta di polizia, quindi le retate, gli arresti, le espulsioni, i rimpatri collettivi. Dall'Inghilterra sono partiti anche dei charter diretti in Afghanistan, come anche in Iraq. Lì insomma si fanno molti meno problemi che non qua in Italia, quando si tratta di rimpatriare rifugiati politici. Di nuovo, sempre con l'idea che pur di proteggere la frontiera, insomma, si possa rinnegare qualsiasi diritto, che sia il diritto all'asilo politico di qualcuno che arriva dall'Afghanistan, che sia il diritto all'integrità familiare, come succede spesso anche in Italia con le espulsioni di chi viene espulso pur avendo qui in Italia moglie e figli, perché magari vive in Italia da 20 anni e l'unico problema è che gli è scaduto il permesso di soggiorno, perché magari nel frattempo ha perso un contratto di lavoro, no? con i tempi di crisi che viviamo, oppure facciamo respingimenti in Libia di nuovo, violando addirittura la Costituzione italiana, la legge sull'immigrazione. Perché? Perché quella frontiera va chiusa, perché su quella frontiera ci sono i riflettori accesi e lì ci si gioca insomma il successo elettorale di campagna in campagna. Poi insomma le responsabilità saranno accertate, anche lì non se ne è parlato, ma sul respingimento in Libia c'è un ricorso in questo momento davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani che sì. sta giudicando l'Italia, sono 24 respinti che hanno denunciato l'Italia, e insomma tutto fa presupporre insomma che arriverà una condanna. C'è un'altra inchiesta da parte della Procura di Siracusa contro i vertici della Polizia di Frontiera, accusati di concorso esterno in violenza privata, perché le persone respinte sono state riempite di botte per convincerle a scendere sul molo di Tripoli, no? una volta respinti, perché poi quando ne parla Frontex no, se ne parla con questo linguaggio burocratese, per cui sembra che si parli di gestione di pacchi postali spediti al destinatario sbagliato. In realtà poi ci sono delle persone in carne e ossa, ci sono delle politiche che si giocano sulla pelle di questa gente. Quando dico sulla pelle di questa gente penso alle donne eritree o somali violentate in Libia dai loro carcerieri, dalla polizia libica nei campi di detenzione finanziati dall'Italia e dall'Europa, penso ai 6 somali ammazzati a Bengasi durante la rivolta nel centro di detenzione di Bengasi in Libia, anche lì c'erano delle persone respinte, l'anno scorso è successo. E che la Libia, come dire, non sia esattamente un paradiso anche dal punto di vista dei diritti umani, questo è chiaro, questo insomma lo sappiamo. Velocemente vi faccio sentire che cosa ha detto il dottor Sigillino, che è il capo della Polaria di Fiumicino, che ci parla della loro attività di frontiera, già che abbiamo parlato appunto di questa rotta aerea. Diciamo che l'attività è un'attività piuttosto intensa, basti pensare che proprio per l'elevato numero di traffico di passeggeri anche i dati di respingimento sono dati importanti. Nel 2008 sono stati circa 1.757 i respinti, lo stesso numero lo abbiamo avuto nel 2009 con una leggera pressione, mentre nel 2010 i primi 7 mesi sono i dati fermi al 31 di luglio, sono circa 977 persone. Ecco dottore, i respingimenti avvengono dopo un controllo sui singoli individui, sui singoli passaporti, è esatto? Certamente, diciamo che c'è un controllo di primo livello dove gli operatori controllano, verificano i documenti, la genuinità dei documenti, la corrispondenza alle persone che ne sono in possesso, e poi fanno un'intervista tesa a conoscere le motivazioni del soggiorno, dell'ingresso in Italia, se ci sono degli adeguati mezzi di sostentamento in rapporto al periodo di soggiorno dichiarato, e laddove l'operatore di primo livello, una volta che ha consultato le banche dati dell'NSIS, del sistema di Schengen e quella nazionale, ha semaforo verde perché la persona entra nel territorio nazionale, o viceversa c'è un controllo di secondo livello dove vengono valutate in maniera più approfondita le motivazioni dell'ingresso. E lì, in questo secondo livello, diciamo, spesso incontriamo casi di falso documentale, dove già l'operatore corso in cabina ha visto qualche cosa che magari gli lasciava dei dubbi e che quindi passa in una fase successiva dove ci sono degli operatori molto attenti che hanno fatto dei corsi falso documentale, hanno anche degli strumenti tesi a verificare la genuinità dei documenti, attingono delle banche dati specializzate sia di livello nazionale che di livello europeo e quindi riescono a stabilire la falsità di un documento o meno. In questa fase il respingimento e la denuncia per uso di atto falso. Per ciò che riguarda i richiedenti asilo, quanti ne avete avuti negli ultimi 3 anni? Beh, diciamo anche qui i dati sono assestati intorno a 220 nel 2008, 282 c'è stato un aumento nel 2009 e i primi 7 mesi del 2010 sono circa 109 le persone che hanno richiesto asilo. E allora non è solo la rotta terrestre quella intrapresa dai migranti, ma come avete sentito anche nelle parole del dirigente della polizia, è quella aerea. Io devo ringraziare Gabriele Del Grande perché il tempo è tiranno ai noi. Grazie Gabriele per essere stato con noi, ma ci risentiremo presto perché sul tema immigrazione torneremo. Grazie e una buona giornata. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E allora abbiamo il tempo per un velocissimo sguardo al nostro mappamondo. Terrorismo, Stati Uniti, 14 arrestati, volevano unirsi ad Al-Shabaab. Sono stati arrestati 14 cittadini americani di origine somala che stavano organizzando un rimpatrio in Somalia per unirsi ai combattenti estremisti islamici. Immigrazione in Bolivia. Morales fa un appello al presidente statunitense, al collega Barack Obama, per chiedergli di far abrogare la legge sull'immigrazione dell'Arizona che tante levate di scudi ha sollevato recentemente. Oggi sul Guardian un'intervista esclusiva a Tarek Aziz, che sostiene che il ritiro statunitense appunto dal paese medio orientale distruggerà l'Iraq. Tarek Aziz attacca gli Stati Uniti perché dice: il ritiro delle truppe distruggerà il mio paese. Era l'ultima notizia dei nostri WhatsApp di oggi, non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento a lunedì alle 13.15, non prima di avervi ricordato che in redazione con me c'era Valeria Coffaro, in regia c'era Fabio Cantadori, noi ci sentiamo appunto lunedì, un saluto da Giampaolo Musumeci e ricordate che nessun luogo è lontano.